Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tutti chiedono spesso, molto spesso, il Meccano, che non c'è più praticamente, non esiste più, però tutte persone della mia generazione o comunque più anziane. Un altro gioco che viene chiesto spessissimo è il cavallo a dondolo, però poi ovviamente i bambini difficilmente poi ci giocano, quindi viene un altro gioco però sempre richiesto dalle persone anziane. C'è proprio una differenza ormai generazionale. I genitori delle nuove generazioni vogliono cose più tecnologiche e non implicano poi che loro debbano aiutarli a giocare, eccetera. Qualsiasi gioco dove il grande, cioè chi regala, il nonno o il genitore, non debba poi intervenire nell'aiuto al bambino, così gioca da solo e non rompe. Sembra di parlare di epoche passate, lontane, ammuffite da quella sorta di aura del tempo che lascia tracce soltanto labili. Il Natale, le feste legate al giocare. Beh, molti di voi oggi dedicheranno il post prandium ai giochi in famiglia, molti. Che tipo di giochi? E soprattutto vi dividerete in due grandi tronconi, quelli che ancora devono mantenere le tradizioni, quindi siete ospiti di mamme, nonne, vecchie zie che hanno tirato fuori la vecchia tombola con i ceci o con i fagioli secchi per segnare le varie tabelle, e giocherete a quello, a mercante in fiera, e intanto vi schizzate le bucce dei mandarini negli occhi. Questo è il passaggio tradizionale, antico, che però assume oggi un sapore diverso. Oggi sembra quasi che la contemporaneità abbia bisogno incrollabile di fortificare il proprio recente passato, e quindi per storicizzare ciò che in realtà non ha una storia cronologica, e si usa ammantare tutto dell'aura del vintage, le applicazioni che più funzionano, che più sono condivise, che più hanno successo anche economico notevole, sono quelle che permettono di dare una patina di passato alle foto, come Instagram. Sembra impossibile, ma oggi che tutti abbiamo un apparecchio di immobilizzazione e diffusione di un nostro istante che diventa epico, dobbiamo dare una coloritura di passato. Perché? Perché deve sembrare una vecchia Polaroid degli anni 70, una foto in bianco e nero molto antica, o una foto con i colori sbiaditi o virati di qualche decennio che non è più quello che noi stiamo vivendo. E quali saranno le foto che racconteranno il nostro decennio? Difficile, non ci saranno più foto fatte con le tecniche che raccontano il nostro tempo. Questo vale anche per i giochi. E quali sono i giochi che raccontano il nostro tempo? Come si gioca oggi? Quali sono le accezioni che noi diamo al gioco? Sì, perché oggi giocare è una caratteristica che diciamo passa attraverso ogni atto del nostro quotidiano. Noi giochiamo continuamente con la nostra più potente protesi emotiva, che è il nostro smartphone. È uno strumento che serve per comunicare, per telefonare, per avere nozioni, assumere informazioni, ma ci serve soprattutto per giocare. Ogni nostra attività relazionale di social networking è un'attività di gioco. Quindi noi giochiamo tutto il giorno. La nostra vita, per quanto dura, per quanto piena di amarezze, per quanto complicata, è una vita intessuta di gioco. Beh, oggi, nel giorno canonico e preposto al lecito gioco, in cui le persone che faticavano, lavoravano, avevano una vita molto austera e molto tenuta sul filo della rettitudine, si lasciano andare al gioco. E cosa significa per voi giocare? Tutti vogliono dei giochi per i bambini, qualcosa che sia per bambini più grandi, perché i loro bambini sono sempre più intelligenti, sono sempre più capaci. No, ma quel puzzle no, perché c'ha pochi pezzi, lui è molto più intelligente. Ovviamente tutti questi giochi poi vengono accantonati, non vengono poi usati dai bambini, chiaramente. Naturalmente il passaggio generazionale, il cambio di passo, si nota anche attraverso i giocattoli e i giochi che si fanno, che vengono regalati, che vengono scambiati, che vengono condivisi sotto le feste. Naturalmente ognuno ha dei giochi legati alla propria generazione, dei giochi tipici, dei giochi che raccontano la fanciullezza, l'età più giovanile, dei giochi che sono stati molto utili per mantenere, rinsaldare relazioni, vincoli familiari, per impedire il linciaggio e l'uso della motosega letale nei rapporti familiari, che erano coatti e necessari sotto feste. Quindi davanti alle tombole, davanti a mercante in fiera, davanti ai giochi dell'oca, si sono sopite tensioni che avrebbero meritato le coltellate. Ma con gli stessi giochi sono anche nati i primi amori. Una volta non c'era Twitter, non c'era Facebook, non c'erano le messaggerie veloci compulsive. Per conoscere, frequentare, scambiare occhiate complici non c'era di meglio che sedersi davanti a un tavolo e scambiarsi alcuni giochi o giocare attraverso questi giochi che avevano molti contenuti anche profondi, anche simbolici. Maiorchina. Gara di lancio analoga al ruzzolone effettuata a Novara di Sicilia. Ad essere scagliato non è un disco di legno, ma una forma di pecorino maiorchino. I lanci vengono effettuati di volta in volta senza rincorsa dal punto raggiunto in precedenza lungo la strada. In caso di rottura del formaggio, il lancio successivo avviene dal punto dove si trova il pezzo di formaggio più grosso. Andrea Angiolino, un uomo che ha dedicato la sua vita al gioco. Ha giocato tutta la vita, ha scritto di giochi, è autore di giochi, un giornalista, insieme a Beniamino Sidoti, ha fatto il dizionario dei giochi, detto da Zanichelli, che è l'enciclopedia di tutti i giochi. Andrea Angiolino, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Allora Andrea, noi ci troviamo spesso in questa occasione dell'anno a parlare di giochi, tu lo vedrai con un certo disagio perché dice tutta la vita, tutto l'anno per me è il tempo del gioco, però noi ci ricordiamo che in realtà è lecito giocare sotto le feste, come ci fosse una sorta di momento felice in cui ci possiamo permettere di giocare. Sei d'accordo innanzitutto sul fatto che oggi giochiamo molto di più senza rendercene conto? Beh, c'è anche una strategia del marketing di rendere ludico quello che magari era un normale modo di affezionare il cliente ai propri prodotti. Si tende a mettere il gioco nella promozione pubblicitaria, nell'addestramento, nella formazione. Questa, insomma, è una tendenza interessante, anche se poi io preferisco i giochi fatti a scopo ludico. Ecco, tu sei uno storico del gioco. Il gioco, nelle accezioni di cui stiamo noi parlando, il gioco da tavolo, il gioco di società, il gioco si fa con oggetti di carta, con piccole cose povere, fino al gioco di piazza, al gioco di paese, serviva a rinsaldare certi vincoli in aggregati sociali, vuoi la famiglia, vuoi la coppia, vuoi le amicizie, vuoi anche il piccolo clan del centro di persone che si riuniva in piazza e giocava, appunto come la clip che abbiamo tratto dal tuo libro, a ruzzolone fatto con il formaggio. Era questa la funzione principale dei giochi di cui tu ti occupi? Sì, infatti è curioso che poi alcune delle app che uno ha sullo smartphone sono giochi che hanno gli stessi meccanismi dei giochi in scatola. Però poi si giocano spesso contro un anonimo, contro un nickname, e non so quanto poi si riesca a rompere questo anonimato e passare poi magari alla chat a conoscere davvero qualcuno. E quanti dei tuoi giochi tradizionali oggi sono diventate delle app? Accade? O perlomeno delle chiavi di gioco, delle formule di relazione attraverso il gioco? Perché la relazione ludica è già su un campo di compromessi stabiliti e condivisi. Ci mettiamo a un tavolo perché vogliamo giocare, vogliamo divertirci, poi c'è un'altra accezione di cui parleremo quando ci mettiamo davanti a un tavolo per giocare, io voglio fregare dei soldi a te, tu devi fregare dei soldi a me, ma non è questo il tuo campo, no? No, in realtà anche i giochi elettronici in parte sono isolanti, ma come poteva essere isolante un flipper, tutto sommato? Sono io contro la macchina, contro le trappole che ha messo chi ha progettato quella macchina. Però i multi-user dungeon, i sotterranei giocati da centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone in contemporanea esistono e in realtà sono una forte forma di socializzazione online attraverso il gioco. Quella è una funzione importantissima. Certo, poi il gioco tradizionale è più forte, potersi sedere allo stesso tavolo, vedere la smorfia di disappunto o di trionfo davanti a una mossa azzeccata sono impagabili. Qual era il gioco classico che si giocava in questo periodo? C'è una nostra tradizione un pochino più arcaica che oggi magari nemmeno conoscono le nuove generazioni. Ma alcuni sopravvivono. Adesso mi viene in mente, al di là appunto dei già citati, Mercante in Fiera, Tombola, la Tombola che nasce per il divieto del re di Napoli di giocare il lotto a Natale. Diventa... Era il lotto casalingo praticamente. Quando si trova il compromesso fra il clero e la monarchia di sospendere il lotto a Natale, la gente se lo fa in casa e fa la tombola con gli stessi 90 numeri e combinazioni. È come quelle roulette di plastica che si portano in famiglia per giocare senza andare al casino. Esattamente. Ora devo dire, ci sono diversi giochi locali, mi viene in mente il Baddarinku in Sardegna, una trottolina dove si gioca d'azzardo sotto Natale, l'avventura forse scomparsa delle castagne da cui un bambino pesca le assegna tutti i presenti più uno ai poveri, chi trova la pagliuzza vince un pollo, chi trova la moneta se la tiene. Ancora oggi si gioca al gioco del panforte, che ricorda un po' la maiorchina di cui abbiamo letto prima. Ci si tira i panforti? Due squadre, tavolo molto lungo, lanciano un panforte cercando di mandarlo il più possibile lungo il tavolo sulla sponda opposta. A Pienza ho visto fanno questo gioco. Esattamente, non si fa a Siena ma si fa nel Senese intorno. A Pienza, sotto le feste in piazza di tirano i panforti, sembra una cosa talmente folle. È un po' come il gioco, appunto, un gioco d'abilità, il colpo migliore è la capannina, quello in cui il panforte spunta senza cascare e anche lì il pubblico si divide quelli... che cascano di sotto e si mangiano rompono. I panforti rotti. Esatto. Giuseppe Giacom, buongiorno, altro ospite. Buongiorno a voi. Direttore responsabile dell'Associazione Giochi Antichi, associazione che organizza anche un festival, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada. C'è anche un sito internet www.associazionegiochiantichi.it. Noi con lei passiamo lievemente rispetto all'aggregato familiare che gioca al gioco che aveva anche una sua funzione sociale, mi sembra. Sì, e che lo ha ancora, nel senso che in Italia la dimensione ludica, non solo nell'infanzia ma nel bambino, sui giochi di territorio è ancora molto presente. Stiamo sì, perché se parliamo di adulti, i giochi di strada oggi suona male. Sì, suona male perché, va bene, l'accezione odierna magari... Sì, è un'accezione negativa, non giocano più per strada gli adulti. Ma in realtà giocano anche se in maniera residuale, marginale, nascosta. Prima sentivo il gioco della capanna, la maiurchea, ma ce ne sono tantissimi. Noi stiamo censendo questi giochi, quindi stiamo parlando di attività che vivono nella contemporaneità, nel reale. Non ecco, chi è che in Italia ancora fa queste cose? Al di là, diciamo, delle piccole sagre di paese, delle feste tradizionali. Ci sono luoghi in Italia dove è più sviluppato, dove ancora gli adulti non si vergognano, non hanno pudore di andare in piazza e giocare tranquillamente, come fossero bambini. Ma ce ne sono ancora parecchie e diciamo che si tendono, cioè le troviamo in maniera assolutamente difforme da nord a sud. Mi vengono in mente tantissime realtà, do dei numeri, sono circa 200 le realtà di gioco legate a giochi in Italia per un totale di quasi 150.000 persone che giocano ancora al gioco di territorio, perché poi parlare di gioco tradizionale include anche giochi da tavolo, io sto parlando proprio di giochi di territorio che normalmente vengono fatti in luoghi pubblici, in spazi aperti oppure in luoghi... come le osterie, i bar, i circoli. Certo, un bel numero, potrebbe quasi fare un partito, sarebbe interessante, il partito di quelli che ancora hanno voglia di giocare, alla faccia di tutti gli altri. Sì, sì, è un movimento, diciamo che il problema è che non ha voce, come tanti sentimenti di questo paese. È una ricchezza che c'è dal punto di vista ludico, che non va in contrapposizione con altre modalità, c'è e che noi cerchiamo di portare alla luce, facciamo un piccolo lavoro maieutico da questo punto di vista. Diciamo si mantiene attraverso una tradizione di trasmissione diretta, praticamente quasi orale, perché sennò altrimenti, come tanti altri giochi che il buon Angiolino mette nella sua enciclopedia, sono ormai icone di passati che non esistono più. Ecco, dov'è che si mantengono più vivi? Quali sono i giochi che si mantengono più vivi? Proprio perché c'è qualcuno che li insegna e continua a far giocare. Perché il gioco, secondo me, non c'è una trasmissione teorica. Se non si gioca, non si passa al gioco. Bisogna entrarci dentro, o sbaglio? È proprio così. La trasmissione vera è la pratica. E quindi cito dei giochi anche legati magari a elementi quali il cibo. La capanna è stata appena citata, come il maiorchino, cioè il gioco con il formaggio, che poi deriva anche da altri giochi come la ruzzola, ruzzolone, il rulletto, che si giocano in tutta la spina dorsale italiana, quindi l'Appennino, troviamo tantissime comunità di questi giochi. Cioè il formaggio si presta bene anche per essere giocattolo, diciamo. Si presta bene perché originariamente una delle modalità, perché è stato mutuato in un'azione ludica, perché a volte veniva utilizzato proprio anche come modalità di testare la stagionatura. Questa era una delle modalità in cui si utilizzava il gioco. Parlando di cibo mi vengono in mente le donne di Monte Rosso al Mare, quindi Liguria, che giocano al gioco delle noci, sono donne adulte dai 20 anni fino ai 70-80, è ancora un gruppo di una circa... E come 30, giocano 40. Con le noci? Giocano come le dispongono in fila sulla strada adiacente alla chiesa fronte rosso, un po' come il gioco delle biglie, come il filetto. Ah, giocano a palline con le noci? Giocano a palline con le noci, sì, fanno un lancio, è quasi un gioco da lancio. Insomma. Ma si rompe un po' le noci? Si devono rompere nel gioco, no? No, non necessariamente si devono rompere le noci, però deriva da una tradizione di raccolta di noci che era un bene primario. Ah, ecco, diciamo, dopo aver faticato una giornata a raccogliere le noci, si mettevano accanto alla pianta e ci giocavano. E ci giocavano per vincerle, perché poi le noci in realtà venivano vendute perché era ovviamente un prodotto molto prezioso che dava reddito al territorio. Ma lo giocano ancora, quindi, e non lo giocano a fini turistici, di proloco, di sagra. Proprio piace giocare, ecco. Sì, c'è una dimensione ancora di piacere che poi è la dimensione vera del gioco fine a se stesso. Questa è la dimensione che dobbiamo ricordare, che spinge le persone poi a giocare e a entrare in relazione con gli altri, soprattutto nella dimensione del gioco di territorio, cioè dello spazio, dell'occupazione dello spazio, del vissuto dello spazio. Andrea Angiolino, un attimo, stai sfogliando il tuo dizionario dei giochi. Ecco, ti fa venire in mente qualche altra deriva? Il gioco delle noci, i giochi gastronomici, dei giochi possibili da fare in questo periodo, anche perché mi piacerebbe dare qualche lieve suggerimento per chi ci ascolta, c'è ancora diciamo un'oretta fino all'ora del gioco post prandium più o meno, quindi cosa potrebbero fare con quello che hanno in tavola? Ma sicuramente le noci sono uno strumento di gioco, nonostante il tabù che non si gioca col cibo. In tavola c'erano gli stuzzicadenti, che forse il galateo ha un po' relegato, e sono ottimi per fare... Cosa si fa con gli stuzzicadenti? Ma intanto molti enigmi, che però bisogna conoscere per proporre numerici o altro. Ah, mettendoli, facendo delle composizioni. Sì. Esatto, poi uno molto semplice, metto per esempio tre file, uno da tre, una da cinque, una da sette, stuzzicadenti, noci o altro, a turno ne prendiamo quanti ne vogliamo, purché tutti dalla stessa fila, chi prende l'ultimo ha perso. E questo è il gioco del NIM. Poi i giochi hanno sempre dozzine di nomi. Tipo Shanghai, ecco. Sì, non c'è il problema di muoverli o meno, è semplicemente un gioco di strategia, per cui lasciare l'ultimo pezzo all'avversario. Poi ci sono tante varianti, c'è quello in cui vince chi prende l'ultimo e così via. Questo è un tipico gioco da tavolo, nel senso stretto, da tavolata. Adesso... Ecco, ma perché, diciamo, a seconda delle tradizioni regionali, i segnalini della tombola erano sempre o fagioli o ceci o qualcosa che legato diciamo all'uso domestico di cucina, perché era più facile. Sono a portata di mano adesso. Il segnalino, anche nel gioco dell'oca, quando il gioco a stampa veniva venduto, non era legato, uno usava quello che trovava. Devo dire che fagioli, pasta asciutta eccetera ci si può giocare, ma non perdono poi la loro qualità. Anche i maccheroncini, è vero, i maccheroncini poi, sì. Poi possono essere riutilizzati senza problemi, perché insomma poi li cuocio, non è che li ho sprecati. Poi vanno bene anche le bucce di mandarino, qualunque cosa si trovi a portata. Fa parte appunto di un'arte di arrangiarsi nel gioco, dove si gioca con tutto quello che c'è a portata di mano: monetine, tappi, sassolini. Giacomo, fa parte dei giochi che voi analizzate, o cominciamo a entrare nell'aura dei giochi maledetti, quei giochi in cui si gioca per far bere qualcuno, come poteva essere la passatella e via dicendo? C'era un gioco e poi alla fine la penitenza era sempre bere, e si finiva che il più scemo della compagnia veniva ubriacato, o a differenza, il più intelligente veniva costretto a avere comportamenti che non erano proprio consoni al suo stile di vita. Questi sono giochi, diciamo, che rientrano nella categoria dei giochi leciti, o già entriamo in una sorta di zona limacciosa che non sono più giochi? Ma insomma, il confine del ludico è sempre molto labile. Noi sappiamo che tutta la problematica legata anche all'azzardo, che sembra oggi il tema della ludopatia, questa parola terribile. Sì, poi ne parleremo, abbiamo una persona. Che si perde nella notte dei tempi, cioè l'azzardo ha sempre, c'è sempre stato e ha sempre girato intorno. Quindi sì, poi questo non è tanto un azzardo, è un po', non è che si giocano soldi o ci si rovina. No, è il mettere, diciamo, al centro del gioco qualcuno vuole essere preso un po' in giro, ecco, questo è il fatto. Beh, ma ci sta assolutamente all'interno del mondo del ludico lo scherzo, il deridere, fa parte proprio della dinamica relazionale. Lì dove c'è relazione c'è anche questo elemento, anche nelle vere e proprie competizioni. Da questo punto di vista qui penso che sia una molto spesso un'azione connaturata col gioco stesso, con l'azione di gioco. Ecco, poi io... ovviamente Sì, prego. No, poi ovviamente dipende sempre dall'ambito e dalla modalità di gioco. Ci sono dei giochi che si prestano di più e di meno. Prima lei citava il discorso anche del rapporto con col vino, con l'alcol o con lo scherno. Mi viene in mente un gioco antichissimo citato anche da Petronio nel Satirico, che è il Cottabos o Cottabos, oppure. E questo che era legato a fenomeni orgiastici, quindi c'è anche una letteratura intorno a questo. Sì, ma ci sta anche quello, non è che abbiamo problemi di tenuta etica, l'importante è che si giochi. Giocavamo con le palline, quello di più ci giocavano i maschi, però anche noi ragazzi facevamo rotolare chissà quante. Erano di vetro quelle più, oppure anche di terracotta dipinta. Chi le aveva, qualcuno le aveva più belle di vetro, tutte iridate dentro, quelle erano belle. E si giocava per ore. Andrea Angiolino, sulle biglie c'è da dire qualcosa, perché erano degli oggetti, diciamo, del desiderio, quelle di vetro bellissime, ricordo che erano rare, e si facevano dei giochi anche inventati. Uno ci giocava di tutto con le biglie, se le teneva in tasca, se le tirava fuori, e ci faceva anche nei momenti coatti e nascosti sotto il banco a scuola. Oggi si gioca ancora con le biglie? Ci si gioca ancora. Ma si vendono, si trovano in vendita? Sì, in Italia troviamo quelle di vetro colorate, troviamo quelle di plastica con i ciclisti. C'è un bellissimo monumento a Pantani lungo un'autostrada in Romagna, che è un'enorme biglia con la sua foto dentro. Ah, quelle trasparenti che c'era dentro, quelli si giocava sulla sabbia più che altro. Esatto, a fare le piste trascinando qualcuno per le gambe che con il sedere tracciava la pista, e poi tornati in città magari le biglie rotolano male, si usavano i tappi col gessetto, ora magari usano poco, però la biglia è un oggetto tipico dell'arrangiarsi, come dicevamo, è un oggetto che nell'antichità... Io mi ricordo anche di terracotta. Erano dei miei zii più grandi. C'è anche una cultura diversa, per esempio in Inghilterra, dove ci sono biglie tiratrici, biglie da colpire, eccetera, in materiali diversi, biglie d'acciaio. C'è più varietà all'estero. Diciamo, il grande pregiudizio sulle biglie in Italia, lo ricordo perché fa parte della mia storia personale, iniziò con gli anni 70, con gli anni delle contestazioni studentesche, venivano usate per tirarle con la fionda, per fare male, e quindi divenne un oggetto non più per giocare, ma un oggetto contundente. Se uno veniva preso nelle biglie in tasca, dice: cosa ci fai con queste biglie? E le tirava durante le manifestazioni di piazza. Ecco, c'è da notare un'altra cosa, che la biglia è oggetto di gioco, ma è anche posta in gioco, come le figurine. Io gioco con le figurine per vincere le figurine, così le biglie, questo piccolo azzardo domestico è tollerato. Beh, quelli bravi andano a casa con le tasche piene di palline di vetro. Melog, cronache meridiane. Schieduno prendeva dei tappi e metteva il suo ciclista preferito incollato dalle figurine, si incollava sul tappo, si faceva un circuito per col terra, gesso. Col gesso, e poi a stecche chi usciva ritornava indietro, fuori, e così si facevano giochi molto... Noi giocavamo molto le figurine lì perché avevamo il vantaggio di avere il marmo dei marmisti del Camposanto, e quindi c'era anche i depositi, ci sono tuttora i depositi delle pietrone del municipio, del comune, quindi noi non era recinto. E queste sono memorie legate a giochi antichi, a giochi del passato, a giochi che stanno comunque continuando a sopravvivere, anche se non proprio centrali rispetto all'attenzione generale. Oggi, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il giocare è una parte anche inconsapevole del nostro relazionarsi con altre persone. Oggi il gioco intesse molte delle nostre attività, e quindi è un pochino più difficile scindere quello che è il tempo del gioco e il tempo della consuetudine, il tempo della rettitudine. Il gioco però oggi assume anche delle accezioni molto negative. Ahimè, è stato detto da un ospite poco fa, il termine ludopatia è entrato pesantemente e anche fastidiosamente nel nostro vocabolario. La malattia del gioco, diciamo, che bello, giocare è la cosa più bella del mondo, può essere una malattia, ma evidentemente esistono delle forme di patologia legate a un'azione compulsiva del gioco, soprattutto quando il gioco è legato alla scommessa, il gioco è legato al poter dissipare comunque il proprio patrimonio alla rovina. Sotto feste natalizie capodannesche, in molte province italiane, ne ho memoria personale e anche se non molto recente, è tradizione che si giochi. Si gioca a carte, si gioca in famiglia, si gioca nei piccoli circoli, si gioca nelle sale gioco, si gioca nei posti riconosciuti clandestini, si gioca molto a carte e passano di mano in mano notevole fetta dei patrimoni familiari. Questa probabilmente è una delle forme più antiche, più descritte, più trasversali alla nostra società di ludopatia. Poi oggi se ne parla anche riguardo ai cosiddetti giochi pubblici, Enalotto, Super Enalotto, Gratta e Vince e via dicendo, le scommesse di tutti i tipi, che possono portare a comportamenti, ci sono varie scuole di pensiero, a volte molto pericolosi, realmente dannosi per la società, per l'ordinamento delle famiglie che su questo si rovinano, o a volte anche semplicemente ammantati anche da un grande pregiudizio, perché tutto ciò che è bello, tutto ciò che fa divertire, tutto ciò che dà piacere, comunque esiste sempre una fetta notevole di persone che prende le distanze, perché sono cose che in fondo danno felicità e quindi è bene astenersi, non sa manco perché. Una delle persone che spesso abbiamo chiamato, perché è un grande esperto di questo tipo di giochi, è Fabio Felici, direttore dell'Agimeg, l'agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Allora, Fabio, ti chiamo sotto feste capodannesche, natalizie e in generale il grande ponte di Natale, perché è uno dei periodi in cui si gioca di più. Si gioca di più in tutte le salse, in tutte le accezioni, si gioca più in casa, ma si gioca anche più nei luoghi preposti per il gioco? Sì, sì, è vero. Beh, diciamo che questo per antonomasia è il periodo in cui la Lotteria Italia, che ricordiamo è la lotteria più antica del nostro paese, ha festeggiato quest'anno gli 80 anni di vita. Io ricordo che la prima edizione si disputò nel 1933 a Trivoli, all'epoca che era sotto il dominio italiano, e il buon Tazio Nuvolari arrivò secondo, battuto da una Bugatti molto più veloce di lui, però ha festeggiato 80 anni di vita quest'anno, e in questo momento è il periodo per esempio in cui la Lotteria Italia ha un ritorno di fiamma, anche se ormai sono lontani i tempi della Carrà, di Bonolis, cioè di coloro che fecero resuscitare la Lotteria Italia da una depressione. Beh, faccia parte delle liturgie di questo tempo stare con il biglietto in mano davanti alla televisione a vedere si regala. Ormai il biglietto della Lotteria Italia viene utilizzato come biglietto d'auguri, al posto del classico biglietto bianco con scritto tanti auguri mamma, tanti auguri papà, si utilizza un biglietto della Lotteria Italia che fa molto più effetto e fa sperare in qualcosa. Poi speriamo che non capiti come qualche anno fa, che i 5 milioni vinti del primo premio non furono mai riscossi, quindi ci fu una persona per cui la dea bendata bussò molto forte alla porta ma non andò a riscuotere i 5 milioni. Ecco, che succede in questo caso? 5 milioni di euro che non vengono, diciamo, riscossi, chi si riprende? È successo a Roma nell'edizione 2008-2009 e l'anno successivo fu rimesso in gioco. L'edizione successiva ci furono due primi premi da 5 milioni. Insomma, per fortuna non capitò come capitava negli anni passati, che i soldi non vinti venivano, come dire, prendevano strane vie del ministero e in strani rivoli che non si sa dove finisse. Cioè, quindi, si dividevano tra di loro. Si dice così, si racconta così, è una leggenda metropolitana. Però diciamo, questo è il periodo di Lotteria Italia, anche se quest'anno non sta andando granché, però si viene un po' rivitalizzata, e i classici giochi come la tombola, la scopa, la briscola, che comunque il 7,5 che si pratica molto a Natale, adesso hanno la nuova veste dell'online, quindi molti si sono spostati anche a giocarlo su internet. È vero, non ha il fascino della casa, non ha il fascino della buccia di arancia messa sulla casella per coprire il numero uscito, però è un'evoluzione del nostro tempo, quindi anche questi giochi tradizionali sono passati sull'online. Infatti a fine anno l'online darà un segnale di stabilità per quanto riguarda gli incassi sul mercato del gioco. È uno dei pochi settori del gioco che ancora regge la crisi, perché nel 2013 gli italiani spenderanno il 4% in meno per tentare la fortuna, e quindi è un segnale che la crisi si è insinuata anche. Ecco, questo l'ho domandato, volevo parlare un attimo di cifre di soldi. È un discorso che abbiamo trattato un'infinità di volte a questi microfoni, ma ritorna sempre attuale. Il grande dubbio, il fatto che lo Stato abbia fatto delle attività che una volta erano in un'area limacciosa di semiclandestinità o addirittura di criminalità organizzata, suo strumento di controllo, porta un notevole gettito nelle casse pubbliche, ne godiamo tutti. Però esiste comunque il fatto, dice, come lo Stato diventa complice di una malattia così importante come la ludopatia. Ecco, a che punto siamo rispetto a questa sorta di dubbio, di compromesso? Sì, rinunciamo tutti ai gettiti del gioco, vuol dire che alla fine dovremmo metterci in testa che ci daranno qualche altra tassa, perché in fondo aiutano. Però questo cosa fa? Incrementa le persone a giocare e quindi a rovinarsi con il gioco? Lo Stato diventa uno sfruttatore delle debolezze altrui? Verrebbe da chiedersi. Dammi qualche cifra esatta, so che questo sei molto laico te. No, ma io sono, diciamo, sono 30 anni che studio questo fenomeno, quindi mi ricordo il mercato dai prima dei monopoli di Stato, mi ricordo il mercato assolutamente completamente illegale, le corse dei cavalli per strada, il toto nero, mi ricordo tutto quanto. Io vorrei dire, se non ci fosse lo Stato, non è che non si giocherebbe più, ritornerebbe tutto in mano a criminalità organizzata, a mafia, camorra, gestioni clandestine, senza soldi per erario, ma con un pericolo sociale molto più elevato, secondo me, di chi purtroppo oggi si ammala. Per carità, i 600.000, il mezzo milione di persone che si dice soffrono di ludopatia, anche se è un dato molto aleatorio perché non esiste un dato ufficiale su questo, bene, vanno assolutamente curate, seguite. Ecco, su cosa si basano questi dati? Quando si dice sono i malati, visto oggi parliamo di gioco, anche di malati gioco. Capire come, a parte che come dicevi giustamente prima te, dal 1 gennaio la ludopatia è una malattia ufficiale, cioè si può prescrivere sulle ricette mediche, per carità, però io non è come, non so, la polmonite che c'è. Cioè potrei starmene a casa invece che andare a lavorare, ci sono ammalato di ludopatia, scusate, vado a giocare perché è la mia malattia. Però, quindi tutti i dati che vengono lì, non c'è niente di ufficiale, non esiste una cifra vera, però supponiamo che sia vera, il mezzo milione di giocatori, di persone che soffrono di questa malattia da gioco, per carità, seguiamole tutto quanto, ma non può essere il problema il gioco, cioè il diavolo non estrae i numeri della tombola e ci persuade a puntare tutti i nostri risparmi su quello. E quali sono i sistemi di controllo? Io vedo che nelle ricevitorie dove vado per comprare le caramelle c'è un cartello, attenzione, non giocate. Per quanto riguarda l'online, il sistema italiano è uno dei assolutamente dei più controllati. Per poter giocare online bisogna rifare un conto di gioco su cui bisogna dare il documento, codice fiscale, le proprie generalità, mettersi un autolimite di gioco, è possibile autolimitarsi, quindi abbiamo un sistema online molto efficiente e controllato. Ovviamente se poi il ragazzo di 15 anni toglie scopre la password del padre, entra e gioca, questo, ma potrebbe farlo anche col conto corrente del padre, così, quindi questo purtroppo non si può evitare. E comunque il gioco è vietatissimo ai minori, se un esercizio commerciale da un gratta e vince a un minore accetta una scommessa di minore, può essere chiuso l'attività commerciale, quindi gli strumenti ci sono, però poi sta anche a chi sta sul territorio fisicamente a far rispettare tutte queste regole. Un attimo, Andrea Angiolino, che è stato in silenzio, ricordo autore di giochi e autore del dizionario dei giochi edito da Zagnichelli insieme a Beniamino Sidoti. Quello che sta dicendo adesso Felice rispetto al gioco organizzato, al gioco chiamiamolo così, statale, controllato dallo Stato, esiste nella tua antologia di giochi qualcosa di assimilabile, qualcosa di giochi pericolosi, giochi che davano dipendenza, giochi d'azzardo, giochi d'austeria? C'era questo capitolo nero dei giochi? Beh, sicuramente, coprendo il gioco a 360 gradi ci sono... Oggi di questo vogliamo parlare. Sì, ma per dire la passatella, per citare il gioco d'austeria in cui si beve, poi porta alle coltellate anche. Cioè. Tradizionalmente la roulette russa da oziosi zaristi che si sparano in testa. Ma esisteva davvero? Sì. Non è una cosa solo da film, da letteratura? È esistita, poi chi la volesse, nel film Il Cacciatore viene imposta ai prigionieri americani dai vietnamiti, per dire, non è... Come diciamo gioco d'azzardo, tutti scommettono su chi salterà le cervella. Esattamente, poi si può sdrammatizzare e giocare all'omelette russa così... Com'è l'omelette russa? Tante ci uova. Si tira una frittata in testa? Tante uova fresche e una soda. Omelette russa. Gioco per due o più giocatori. Occorrono tante uova quanti sono i giocatori. Tutte sode tranne una che è cruda. A turno i giocatori prendono un uovo e se lo schiacciano energicamente contro la fronte con sufficiente impeto da infrangere il guscio. Chi trova un uovo sodo può mangiarselo, mentre chi incappa nell'uovo fresco finisce inesorabilmente con lo sporcarsi, suscitando le risa dei presenti. Era questo che dicevi, Andrea Angiolino, cioè si prendono tante uova sode, uno è normale, è crudo e qualcuno se lo spiaccica in testa. Esattamente, qui drammatizziamo, però effettivamente c'è una categoria dei cosiddetti giochi idioti, che sono quelli che mettono a repentaglio... I giochi scemi, eh. Sì, sì, ma in letteratura si chiamano proprio idioti. Anche il gioco della verità, dove io metto, devo rispondere il vero alle domande che ci facciamo a turno, mette a repentaglio i nostri rapporti sociali. Tutti... Sì, ma chi è che risponde il vero al gioco della verità? Giusto, non lo so. Sono quei giochi che si facevano ai tempi del liceo con le ragazzette. Chi ti piace? Mi piace Pinco, mi piace Pallino, e tutti giù a ridere, capito? Quello è vero. Nessuno dice mai la verità, non esiste il gioco della verità, è il gioco della falsità dichiarata, no? Per fortuna sì, dopodiché ci sono giochi sull'incolumità fisica messa a repentaglio, il train surfing piuttosto che il salto da un palazzo all'altro. Sono forme di gioco pericoloso dove si va oltre, si gioca coi coltelli, per dire, cercando per esempio di tirarli vicino al piede, uno deve allargare il piede fino a dove casca il coltello e lì c'è il rischio. È il tipico gioco scemo che in televisione, quando ci sono i programmi dedicati agli stuntman, c'è scritto: queste cose non vanno rifatte a casa, non le fate a casa con i bambini perché è molto pericoloso, c'è le persone che si schiantano a tutta velocità contro delle muraglie. Esattamente, in un mondo di giochi di tutti i tipi, divertenti o meno, a volte un pochino noiosi, ci sono perfino giochi che, come dire, sono pericolosi o per la salute o per l'immagine, per i rapporti sociali, per le finanze, c'è anche questo. Senti Fabio Felici, proprio per concludere, ricordo il direttore Agimeg, che è un'agenzia giornalistica che si occupa del mercato del gioco. Oltre al gioco vince una posta in gioco, sono giochi che, diciamo, si vince qualcosa che ha un proprio, che ha un valore distribuito nel tempo? Sì, ci sono i vitalizi, sono sbarcati 2-3 anni fa. Il vitalizio è bellissimo, un'idea comunque. Sì, sì, ma è un'idea che abbiamo, come dire, importato, perché negli Stati Uniti e in Inghilterra esistono già prodotti, non so, che ti davano 1.000 sterline di premio ogni giorno del tuo compleanno, oppure che permettevano di avere una pensione garantita fino addirittura ereditabile. Quindi diciamo che all'estero già funzionavano questo tipo di sistema, e adesso 3 anni fa sono usciti i primi gratta e vinci, o la schedina del Win for Life, dove è possibile vincere da 1.000 a 4.000 euro al mese per 20 anni, quindi una sorta di vitalizio. Però in questo caso non è stata un'idea nostra, ma è stata un'idea che abbiamo importato dall'estero. Sì, diciamo che c'è una sorta di accezione etica maggiore, sembra un gioco buono perché in fondo vince qualcosa che assomiglia agli ammortizzatori sociali, ai sistemi di compensazione, cioè non è che vinci la posta e tutti ti invidiano, diventi ricco improvvisamente, vai a comprarci la pelliccia, la fuoriserie, vinci un poco che ti permetterà di avere una vita un po' più dignitosa. Grazie a Fabio Felici, ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Chi tocca la barba di San Pietro. Tradizionale gioco romanesco. Un conduttore, posto su una scalinata, mette le mani dietro la schiena e chiude i pugni. In uno dei due stringe un sasso di piccole proporzioni. Poi mostra i pugni ai giocatori disposti ai piedi delle scale, chiedendo se il sasso sia nascosto a destra o a sinistra. Tutti quelli che indovinano salgono di uno scalino. Vince quello che arriva allo scalino più alto. Il vincitore, fingendo di toccare la barba di un'immaginaria statua di San Pietro, si volta e benedice la folla sottostante, formata dagli altri giocatori. Andrea Angiolino, ricordo, autore di giochi, autore del dizionario dei giochi edito da Zanichelli. Erano dei confini molto labili fra sacro e profano, fra profanazione. Toccare la barba del santo è un gioco che appassionava probabilmente in occasioni di particolari feste religiose. Ma in realtà è più la tendenza dei ragazzini a giocare con chiunque, con qualunque cosa, insomma. Ce ne sono altri giochi legati comunque a quello che erano gli oggetti intoccabili e intangibili del culto tradizionale, perché sai, si gioca molto in periodi di feste, anche di feste religiose, e molte volte si trova una difficile compensazione dell'austerità e del clima dettato dal momento liturgico e il fatto che poi invece la gente vuole giocare. I giochi di piazza si fanno nelle feste dei santi patroni. Sì, sì, beh, ci sono anche dei giochi che si fanno, per dire, con le uova di Pasqua, tipiche di Pasqua, farle cozzare, rompere quelle degli altri per conquistarla e poi mangiarle a spese degli altri. Sugli oggetti sacri, insomma, non si arriva a tanto, anche se si possono citare, c'è una corsa dei santi, per dire, che in realtà ha delle connotazioni ludiche. Cosa sono le statue che corrono? Esattamente, e sono tre santi, tre macchine che vengono portate a spalle a Gubbio. Ah, i ceri di Gubbio, certo. Esattamente, e dopodiché un santo che entra chiude la porta alle spalle. Che sempre Sant'Ubaldo il protettore di Gubbio, che vince, lui non esiste. Sì, una bella festa, perché quella è una festa che è una festa sacra, ma è quanto mai più pagana. Sono fatti ubriachi fino alla radice dei capelli, portatori dei ceri, capito? E c'è una grande accozzaglia in cui poi si fa di tutto. Però avevi citato te, Angiolino, la possibilità che alcuni giochi tradizionali, antichissimi, costruiti per essere fatti con oggetti poveri, come fogli di carta, cartoncino, pezzetti di legno, stanno lentamente transumando nel campo delle applicazioni. Tu ne avevi citato qualcuno. Alla base dei giochi più famosi, delle app più famose, sono i giochi che si usano con gli smartphone per passare il tempo. Ci sono giochi antichi. Se noi prendiamo il Razzle, è esattamente il paroliere che si fa con i dadi di legno, si può comprare. Io pensavo fosse la ruzzola. No, non c'è. C'è un'assonanza che può ingannare. In realtà potete comprare il paroliere, che è un quadrato di dadi di legno che scuotete e poi tutti ci cercano le parole nel giro della classifica. Che è Razzle, che tutti già giochiamo a Razzle, in realtà giocavi a paroliere. Esattamente. Dove hanno innovato è stato nel mettere dei bonus diversi per lettere o parole utilizzate, che però stanno già nello Scarabeo e nello Scrabble, quindi in un altro gioco da tavolo. Diciamo, l'applicazione è potente, funziona e tutto quanto, però la possiamo giocare, anzi si gioca da decenni al tavolo, così come i vari giochi di quiz trovano un riscontro esatto nei giochi da tavolo. Adesso ti propongo un passaggio ancora più ardito e ardimentoso. Nel tuo libro parli infinitamente, esempio, dei giochi con i soldatini. Abbiamo fatto fantastiche elucubrazioni dove sono andate a finire i soldatini delle grandi rivoluzioni dell'Atlantico. C'era Hitler, Mussolini, Mao, sono finiti in Iraq, qualcosa del genere. E noi ci abbiamo giocato tanto negli anni 70 e 80. Il gioco a guerra, il gioco dei soldatini, è descritto nel tuo dizionario, ad esempio. Sì, ce ne sono vari tipi, dal Kriegsspiel fatto dagli ufficiali prussiani per addestrarsi, e lo fanno ancora oggi i militari, ai wargame fatti da adulti che vogliono riprodurre le battaglie in dettaglio, ai vari giochi dei bambini che poi magari invece coi soldatini tirano una biglia o col cannoncino sparante li abbattono. Ci sono tanti modi di giocare. Adesso vediamo di capire come nelle più moderne piattaforme di gioco, con le console e nell'ambito della videoludica, che diciamo è la forma più avanzata di gioco, che ormai non è più qualcosa che riguarda soltanto i ragazzi, anzi diventa il collante più potente intergenerazionale. La generazione dei padri che ha cominciato a giocare con i primi giochi fine anni 80, oggi sono quelli che comunque insieme ai figli scelgono la console, scelgono gli ultimi giochi. Abbiamo un esperto anche su questo, Marco Accordi Ricaz, buongiorno. Buongiorno. È un docente teoria e critica delle opere multimediali interattive, autore con Francesco Vannucchi del volume Videogioco, Mercato, Giochi e Giocatori. Hai visto, io con l'esperto di giochi antichi ho fatto ricordare quello che può essere la base oggi dei più avanzati giochi di guerra, di strategia, di sparatutto e via dicendo. In realtà, quali sono i confini ultimi della videoludica? Qual è le cose che vanno di più, che funzionano di più, che in questo momento hanno maggiore successo? E secondo te, quali radici hanno rispetto a questa antichissima maniera di giocare, ad esempio, con i soldati e giocare a guerra? Ma secondo me le radici sono strettissime, sono esattamente le stesse. Io ribatterei al vostro interrogativo di prima, dicendo che i vecchi soldatini sono digitalizzati, un po' come nel film Tron, sono entrati nel mondo del virtuale e adesso sono nei nostri schermi. E ci fanno giocare né più né meno che come giocavamo da bambini nel cortile, solamente che ci aiutano, perché tutta una serie di regole, di questioni che magari ci facevano litigare sono già regolate dal computer e dalla CPU, che lo fa per noi, ci fa da arbitro e quindi regola il nostro gioco. Ecco, qui non c'è possibilità di litigio fra giocatori, almeno su questo è già un passo avanti. Sì, questo in effetti sì, e poi è interessante perché, per rispondere all'altra domanda, il videogioco sta cambiando tantissimo. Abbiamo non solo appena assistito al ricambio generazionale di console, perché sono uscite quelle nuove e quindi adesso c'è grande fermento intorno a questo, ma in realtà siamo all'alba di una rivoluzione ancora più grande che sta per investire il mondo dei videogiochi, che è quella della realtà virtuale. Quindi? Cioè, la curiosità è che di realtà virtuale se ne parla da un'infinità di anni, ce lo raccontano i film, ricordiamo tutti il tagliaerbe, queste visioni immaginifiche di mondi virtuali. Sì, tutti immaginavamo sempre stata quella la frontiera della nostra videoludica, però ancora diciamo, per vari decenni non se ne parlo più poi, dal tagliaerbe in poi, oggi invece è ritornato. Esatto, perché questi dispositivi erano semplicemente grossi, scomodi e insomma non funzionavano. Adesso una società americana fondata da un ragazzo giovanissimo che si chiama Palmer Luckey sta per commercializzare l'anno prossimo un dispositivo che ha raccolto un successo incredibile, si chiama Oculus Rift, è un visore che indossiamo e che ci fa entrare nella visuale del protagonista del gioco, si può adattare sia ai giochi già usciti sia saranno proprio sviluppati dei videogiochi pensati appositamente e funziona in modo incredibile, per questo sta rilanciando il concetto della realtà virtuale, perché non c'è tempo di latenza, cioè quando uno volta la testa vede immediatamente l'immagine corretta e poi ci avvolge completamente a 360 gradi, cioè non è l'impressione di avere un occhiale indosso, ma proprio di stare nel mondo del videogioco. Quindi ancora una volta, scusa Marco, quelle che sembrano le frontiere impossibili, sembra il futuro che noi soltanto preconizziamo, vaticiniamo, diventa realtà attraverso il gioco. Tutti i progressi nel campo dell'informatica, della cibernetica, della robotica, vengono fatte da persone che in realtà cominciano a forzare certe tecnologie per giocarci. Sì, il gioco spinge l'immaginazione e la tecnologia, ma soprattutto trascende anche il suo essere gioco. Cioè, la cosa interessante è che questo ormai è una modalità di espressione, non si gioca più necessariamente per giocare, ma si simula, cioè si entra in un mondo virtuale con le sue regole e lì si esprimono dei concetti. Ormai il videogioco è diventato come una tela e il pennello per un pittore o la penna per uno scrittore, cioè ci puoi fare di tutto. Senti, cosa c'è dietro la progettazione oggi di un videogioco? Citami quello che magari andrà più in queste feste, che si regalerà di più, così anche mi dai anche un consiglio, fra l'altro. E qual è la macchina, la fabbrica c'è dietro un videogioco? Perché probabilmente l'antico e mai sopito pregiudizio nei confronti dei videogiochi, che ancora attraversa la classe degli insegnanti e dei docenti, dei tutori, non sa esattamente che strumento raffinato è la fabbrica del videogioco. È verissimo, la fabbrica del videogioco è veramente una fabbrica dei sogni, cioè è una factory creativa paragonabile a quella di Hollywood, per cui abbiamo, se prendiamo le grandi produzioni, dei prodotti che richiedono normalmente un anno, ma ne possono richiedere anche due o più in certi casi eclatanti, realizzato da team di persone che superano anche le 100 unità, più una serie di aziende esterne e di altre società che danno ulteriori servizi, dalle musiche alle animazioni. E quindi è proprio come fare un Colossal, solamente che impiega ancora più tempo per essere realizzato e dà lavoro a creativi, a musicisti, a scrittori, sceneggiatori, registi, animatori, modellatori 3D, per cui è anche una grande frontiera del lavoro internazionale che fa muovere persone da un continente all'altro. Noi abbiamo italiani di grande successo che lavorano in Canada, che lavorano in Giappone, ed è bello perché c'è un grande movimento di idee intorno a un mezzo nuovo. Ma c'è una creatività che fa annoverare il videogioco come una nuova declinazione della capacità di creare opere letterarie, ad esempio. Nel videogioco c'è una trama come fosse un libro giocabile. Certamente, non è necessario, perché ci sono anche giochi, chiamiamoli astratti, che prescindono da una trama. Pensiamo al Tetris. Il Tetris è un grande esempio di opera d'arte del videogioco, non ha bisogno della trama, incastriamo dei mattoncini colorati. Però d'altra parte ci sono moltissimi videogiochi invece con un forte impianto narrativo, dove viviamo delle storie incredibili che sono interattive, per cui con tutta l'emozione di immedesimarsi in un personaggio, però potendo magari compiere delle scelte morali che ci lasciano lì a tormentarci sulla sedia per decidere se dobbiamo salvare o no il nostro compagno, chi dobbiamo aiutare e chi non dobbiamo aiutare. Quindi sono delle esperienze che risultano, cioè aumentano il pathos, sono ancora più emozionanti che non vedere semplicemente un qualcosa di passivo. Ti faccio un esempio: giorni fa parlavamo con un noto genetista di una scoperta su cui stanno lavorando, del passaggio, una sorta di memoria nel DNA delle persone dai nonni ai nipoti. Ha chiamato un ascoltatore e ha detto: guarda, in Assassin's Creed c'è esattamente questo potere, che tu puoi acquisire un qualcosa di simile, una memoria di stirpe di dinastia. Questo significa che nel videogioco ci sono delle intuizioni o delle maniere già di permettere di vivere il futuro e vanno oltre quelle che sono il circuito delle scoperte scientifiche. Sì, assolutamente, e ci sono, cioè ormai nel videogioco, ma in realtà questo accadeva già alla fine degli anni 70 e negli anni 80, però sono dei trend che si sono fortemente potenziati, e cavalcano anche le sensazioni, le tensioni, le idee che permeano la società in generale. Quindi per esempio mi viene in mente che un videogioco indipendente molto bello che è uscito di recente, si chiama Papers, Please, che è come dire favorisca i documenti, e ci mette nei panni di un funzionario di uno stato inventato dell'ex blocco sovietico, incaricato di vagliare i documenti di povere persone e famiglie che vogliono rientrare in patria. Quindi noi dobbiamo decidere chi ha la documentazione giusta per entrare al confine e chi deve essere cacciato fuori, e con tutta una serie di problematiche e di questioni, perché poi in base a quanti riusciamo a vagliare abbiamo una paga a fine mese, dobbiamo pagare le cure e il cibo per esempio per la nostra famiglia, per i nostri figli, che se noi non facciamo bene il nostro lavoro si ammalano e muoiono. Quindi diventa il videogioco una sorta di training a vivere la vita, ad affrontare le complessità della vita. Beh, il nostro iter mi sembra questa mattina sia stato abbastanza completo e variegato. Vedete, dietro la parola gioco si nascondono tante cose, e poi soprattutto anche i più musoni, i più arrabbiati, i più incavolati con l'esistenza di voi, sappiate che comunque, vostro malgrado, vari momenti della vostra giornata anche voi state giocando. Grazie Andrea Angiolino, grazie Marco Accordi Ricards, ci sentiamo alla prossima.